GR24, il sole 24 ore. Stop del Ministero della Salute ai vaccini anti-influenzali Novartis. Servono maggiori verifiche sugli effetti collaterali. Napolitano, l'Italia sta facendo la sua parte e non chiederà aiuti all'Europa. Pressing dei partiti per modificare la legge di stabilità. La Grecia ha raggiunto un accordo con la Troica sulle misure per il risanamento. L'antitrust di Bruxelles verso una multa alla Microsoft che non avrebbe rispettato gli impegni presi per consentire ai consumatori di scegliere il navigatore internet. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In apertura una notizia arrivata negli ultimi minuti, l'avete sentita nei titoli, riguarda i vaccini anti-influenzali. Ci racconta tutto in diretta Adriana Fracchia. Sì, buongiorno Piera, buongiorno anche agli ascoltatori. La campagna di vaccinazione anti-influenzale deve ancora cominciare, ma ci sono problemi per l'approvvigionamento. Dopo il ritiro, ancora prima della loro distribuzione, di 2.300.000 vaccini anti-influenzali dell'azienda farmaceutica Crucell, che una settimana fa ha predisposto cautelativamente il blocco di tutti i lotti di vaccino anti-influenzale prodotti, oggi il Ministero della Salute, l'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco, hanno disposto appunto il divieto immediato, sempre a scopo cautelativo, in attesa di ulteriori indagini dell'utilizzo di 4 vaccini antinfluenzali prodotti dalla Novartis. I vaccini in questione si chiamano Agrippal, Influpozzi subunità, Influpozzi adiuvato e Fluad. In un comunicato del Ministero della Salute dell'AIFA si invitano tutti i cittadini a non acquistare né utilizzare questi vaccini fino a nuova comunicazione. L'AIFA, sulla base della documentazione presentata dalla Novartis, ha ritenuto infatti necessarie ulteriori verifiche sulla qualità e la sicurezza degli stessi, dal momento che, è scritto nel comunicato, potrebbero indurre effetti collaterali e reazioni indesiderate. Ora il ministro della Salute Balduzzi sta seguendo la situazione e nel corso della giornata sarà lo stesso ministero a fornire altre informazioni sulla situazione. Ovviamente noi vi aggiorneremo nei prossimi notiziari. Per il momento è tutto. Grazie, grazie ad Adriana Fracchia. Sì, naturalmente vi terremo informati su questa notizia nel corso della giornata. Ora invece passiamo alle parole del presidente Napolitano. Da Roma ci informa Elisabetta Fiorito. Una sponda sicura in un momento di difficoltà è quella che offre Giorgio Napolitano al governo impegnato con il disegno di legge di stabilità. Per il Presidente della Repubblica ad aprile si dovrà tenere conto dell'esperienza di Monti, la politica dovrà essere responsabile anche dopo il voto. Il Capo dello Stato esclude che l'Italia abbia bisogno di aiuti europei, non li chiederà, assicura, mentre le banche italiane sono più solide delle altre. Stiamo facendo la nostra parte, siamo intenzionati a farla ancora, dice Napolitano. Anche la migliore legge elettorale non può garantire automaticamente la soluzione di un governo stabile, che è il risultato di scelte e accordi politici. Napolitano è all'Aia per incontrare il primo ministro olandese Mark Rutte, spiega che in Europa c'è consapevolezza del significato e dell'importanza delle misure adottate dal governo Monti per la finanza pubblica e la crisi dell'Eurozona, scelte difficili, spiega Napolitano, ma necessarie e dovute al rilevante debito pubblico accumulato nella fase precedente. Su Finmeccanica, infine, il Capo dello Stato assicura se ci sono reati verranno puniti. E per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito e riprendiamo proprio da Finmeccanica, dall'inchiesta che si arricchisce di nuovi particolari. Ammette di aver parlato per 3 volte con il ministro della difesa brasiliano Jobim, ma ripete di aver sempre agito nel rispetto delle leggi, Claudio Scaiola. Vendere all'estero le fregate FREM era un dovere per aiutare Fincantieri, spiega l'ex ministro dello sviluppo indagato da ieri nell'inchiesta sulle commesse estere del gruppo Finmeccanica. L'ex coordinatore del PDL è coinvolto nel filone relativo ad una presunta tangente promessa ma mai versata che doveva servire a Finmeccanica per ottenere una commessa da 5 miliardi di euro per la vendita al Brasile di navi da guerra. Scaiola è indagato per corruzione internazionale. Con la stessa accusa ieri è stato arrestato anche l'ex direttore commerciale di Finmeccanica, Paolo Pozzessere. Nelle prossime ore il manager verrà interrogato dagli inquirenti nel carcere napoletano di Poggioreale, cui è finito per una presunta tangente da 18 milioni che sarebbe stata versata al presidente di Panama Martinelli. Grazie anche all'intermediazione del faccendiere Walter Lavitola, l'ex direttore dell'Avanti, anche lui recluso da mesi a Poggioreale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo al dibattito sulla legge di stabilità. Fra poco l'incontro fra il Presidente del Consiglio Monti, il Ministro dell'Economia Grilli e il Segretario del PD Pierluigi Bersani. Stamattina invece le proposte di modifica da parte del PDL. In diretta da Roma Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, è una partita che si sta giocando su due fronti, quella sulla legge di stabilità, da una parte le audizioni alla Camera sul provvedimento, ieri tra le altre quella del Ministro dell'Economia Grilli e di Banca Italia, oggi sarà la volta di Confindustria, dall'altra il pressing dei leader di partito su Monti perché il testo venga cambiato nel suo iter parlamentare. Questa mattina il segretario del Popolo della Libertà Alfano ha illustrato le richieste del suo partito, esposte ieri sera al Premier nell'incontro a Palazzo Chigi, presente anche Berlusconi, due le condizioni per una collaborazione da parte del PDL. Sentiamo Alfano. La eliminazione dell'aumento di un punto dell'imposta sul valore aggiunto, cioè dell'IVA, e la eliminazione della retroattività delle detrazioni, o meglio, della revoca della retroattività delle detrazioni. IVA ed agevolazioni fiscali, dunque, le richieste del Popolo della Libertà. A queste da parte del Partito Democratico si aggiunge il capitolo della scuola. Bersani vedrà tra circa un'ora Monti, a lui ribadirà la necessità di una marcia indietro sui tagli al mondo dell'istruzione. Dal governo la replica è affidata al momento al ministro Grilli, che conferma la disponibilità dell'esecutivo ad un confronto in Parlamento. Quanto al pareggio di bilancio nel 2013, Grilli spiega, è un'impresa difficile ma possibile. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Poco fa la nota dei vescovi italiani: non è né giusto né sufficiente richiedere ulteriori sacrifici alle famiglie che al contrario necessitano di politiche di sostegno anche nella direzione di un deciso alleggerimento fiscale. Il punto di Stefano Folli. Di fronte alle pressioni dei partiti per cambiare la legge di stabilità, la linea di Mario Monti sembra quella di non esagerare con la mediazione, di non esaurirsi in estenuanti trattative, ma di lasciare che ciascuno si prenda le proprie responsabilità. Bersani, Alfano e Casini, che resta comunque il più vicino a Palazzo Chigi. Monti ha dietro di sé, come sempre, l'autorevole appoggio del Capo dello Stato, che infatti invita le forze politiche a non abbandonare la via del rigore, che in questo caso vuol dire la via della serietà. Ma cosa significa in definitiva tutto questo? Che siamo ormai in campagna elettorale e che qualcosa si è incrinato fra il Presidente del Consiglio e i partiti che in questi mesi lo hanno più o meno sostenuto. Non abbastanza per far cadere il governo, ma abbastanza per far capire a tutti quanto sarà difficile fra pochi mesi ricostruire una maggioranza, stavolta politica, in grado di gestire il paese. Il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi visiterà fra pochissimo il Bundestag a Berlino e incontrerà i deputati delle commissioni competenti sulla moneta unica. Intanto la Grecia ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Troica. Allora sentiamo dal nostro Vittorio D'Arold cosa prevede questo accordo, Vittorio. Sì, esattamente, è stato raggiunto l'accordo. Ci sono 13,5 miliardi di euro nel pacchetto di austerity, che saranno appunto riduzione ancora una volta di salari e riduzione delle pensioni. Questa è la parte più sostanziosa, ma ci sono anche delle riforme più struttura, come la riforma del lavoro, che prevede appunto un cambio delle indennità di licenziamento, che verranno ridotte appunto a 12 mensilità per chi ha più di 16 anni. Che ha 16 anni di anzianità, e verranno bloccati anche gli scatti triennali, verranno congelati gli scatti triennali, quindi i salari vengono praticamente bloccati. Questo però è il punto più difficile, perché oggi tocca proprio ai tre partiti che formano la coalizione di governo dare il via libera su questi punti, e soprattutto i due partiti di sinistra, il PASOK e il Socialisti Democratici, devono appunto dare questo via libera, ed è molto sofferto. E datene tutto. Grazie. A voi studio. Grazie a Vittorio D'Arold. Veniamo invece ai guai economici del nostro di paese. Corteo degli imprenditori a Torino questa mattina, che protestano sotto lo slogan imprese che resistono. Allora ci colleghiamo con Torino e con Filomena Greco. Sì, buongiorno a voi. Sono un migliaio gli imprenditori, gli artigiani, oggi scesi in piazza a Torino per dire basta, protestare contro l'eccessiva pressione fiscale, contro la burocrazia, una politica di fatto assente. Ad aver aderito all'iniziativa di Torino numerose realtà, l'API, CNA, ne citiamo alcune, Confartigianato, Confcontribuenti. E a organizzare invece questa sorta di marcia è stata l'associazione Imprese che Resistono, un'associazione legata al mondo delle PMI italiane, fondata 4 anni fa da Luca Peotta, un imprenditore del Cunese, che insieme a numerosi suoi colleghi ha partecipato alla manifestazione, hanno fatto degli interventi, portato le loro testimonianze. E adesso in questi minuti si sta concludendo. I manifestanti si sono spostati da Piazza Vittoria al Palazzo della RAI, poco fa hanno inscenato una sorta di azione simbolica, si sono messi a camminare all'indietro per dire che l'Italia intera sta andando indietro, che la burocrazia genera corruzione, fa schizzare il debito pubblico, sottrae di fatto risorse al sostegno delle piccole imprese italiane. E da Grazie. Torino è tutto, linea allo studio. Grazie a Filomena Greco. Si registrano 5 feriti nella protesta che sta interessando invece lo stabilimento IKEA di Piacenza, i cui ingressi sono stati bloccati. 3 lavoratori delle cooperative che volevano entrare sono finiti al pronto soccorso. Un uomo sostiene di essere stato buttato a terra e preso a calci dai manifestanti. Nuovo arresto questa mattina a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, nell'inchiesta sulle tangenti. Nessun merito, ma una vera e propria imposizione pagata anche salata. Questo, di fatto, hanno messo in luce i PM di Monza, Walter Mapelli e Franca Macchia, titolari dell'inchiesta sul cosiddetto sistema Sesto San Giovanni e che oggi ha portato in carcere l'architetto Sarno. Secondo l'accusa, infatti, l'ex direttore generale del comune di Sesto avrebbe imposto l'architetto Renato Sarno all'immobiliarista Edoardo Caltagirone per seguire l'iter di una pratica legata alle aree ex Falc. L'episodio contestato risale al 2009. In sostanza, Caltagirone sarebbe stato costretto a servirsi di Sarno per seguire la pratica, pagando 367.000 euro per un'attività, secondo l'accusa, inesistente. Sarno è stato arrestato oggi dalla Guardia di Finanza per concussione. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E continua a far discutere la sentenza del Tribunale dell'Aquila che ha condannato i 7 esperti della Commissione Grandi Rischi in relazione al terremoto del 2009. Una sentenza che mette in crisi l'attività di previsione e prevenzione della protezione civile. Questo è il tema della puntata di oggi di Italia in Controluce, come sempre alle 13.30. Sentiamo le anticipazioni dalla nostra Maria Luisa Pezzali. Buongiorno. Buongiorno Piera, buongiorno agli ascoltatori. La sentenza del Tribunale dell'Aquila, una sentenza, lo ricordiamo, senza precedente a livello mondiale, che ha creato sconcerto nella comunità scientifica, complica la gestione delle future emergenze con una Commissione Grandi Rischi di fatto delegittimata e della quale nessuno scienziato vorrà più far parte, tanto che in queste ore abbiamo assistito alle dimissioni a catena dei suoi attuali componenti. Che cosa succederà, ci si chiede, con il prossimo sciame sismico, con quello ad esempio che è in corso da mesi nel Pollino? È quello che cercheremo di capire tra poco in Italia in Controluce. Riascolteremo le parole del ministro Clini a Radio 24 su scienziati e decisioni politiche. Ospite fra gli altri il presidente onorario di Lega Ambiente Ermete Realacci, con cui affronteremo il nodo della prevenzione. A più tardi. Grazie, grazie Maria Luisa Pezzali. Dunque Italia in Controluce alle 13.30. La Apple ha svelato ieri sera il nuovo iPad mini, presentato un nuovo iPad e rinnovato la gamma dei Mac. E nei prossimi giorni sarà la volta di Microsoft e Google. È una fine di ottobre intensa per il mondo dell'elettronica di consumo, pressata dalla concorrenza soprattutto dai piccoli tablet da 7 pollici di Google e Amazon. Apple ha presentato l'atteso iPad mini, display da 7,9 pollici dai 9,7 del fratello più grande, con caratteristiche tecniche dell'iPad 2, ma più leggero nel peso, 3 etti, e nei prezzi che partono da 329 euro, un po' più caro dei concorrenti. Apple ha anche rinnovato la gamma di computer portatili e fissi e presentato la quarta generazione di iPad, una evoluzione ad appena 7 mesi dall'esordio del terzo iPad. Altre novità per smartphone e tablet, ma in questo caso Android, verranno presentate da Google lunedì, lo stesso giorno scelto da Microsoft per lanciare la versione numero 8 di Windows Phone, il sistema operativo per smartphone. Altro evento importante per il mercato è l'arrivo di Windows 8, che Microsoft lancerà venerdì. Ma a 2 giorni dal lancio per Microsoft c'è un nuovo problema a Bruxelles. Per l'antitrust, il colosso di Redmond non ha rispettato gli impegni vincolanti presi nel 2009 per consentire ai consumatori di scegliere il navigatore Internet alternativo ad Internet Explorer, abusando così della propria posizione dominante. L'eventuale multa potrebbe arrivare al 10% del fatturato. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il governo siriano osserverà una tregua durante la festa del sacrificio, o almeno è quanto ha promesso all'inviato ONU Lega Araba Lakhdar Brahimi. E anche molti ribelli sarebbero pronti ad una tregua. Intanto la situazione per i siriani resta difficilissima, come ci racconta l'inviato del gruppo Sole 24 Ore ad Aleppo, Roberto Bongiorni. Cecchini. Il primo segnale sono le carcasse di due grandi autobus, l'una di fronte all'altra, che creano un passaggio sicuro. Poi una lunga strada e due corsie che somiglia a un ponte. Da Raj Azazi è forse la strada più pericolosa di Aleppo. Come ogni ponte unisce due sponde. Bustan al-Bashar, il quartiere sotto il controllo dei ribelli, e Sheikh Maksud, controllata dal regime. Ma un tratto della strada, a 50 metri, è esposto. Sotto i nostri occhi i cecchini colpiscono quattro civili. Un giovane colpito la gola, non ce la fa. I cecchini stanno paralizzando la città, sparano anche su donne e bambini. Anche i ribelli hanno i loro tiratori. Nel quartiere di Saif al-Daud, sul fronte, lo spettacolo è surreale. Colonne di fumo si levano dagli edifici distrutti e oscurano il cielo. Il comandante dell'area, Yasser al-Keritz, che ha sotto di sé 1200 soldati, ci spiega. L'area è sotto il nostro controllo, ma ogni giorno uccidiamo due o tre cecchini. E il giorno dopo ritornano. Ma presto, avremo la meglio. I ribelli cantano Allahu Akbar, la guerra dei cecchini continua. Roberto Bongiorni, Radio 24, Sole 24 Ore, Aleppo. A due settimane dal ferimento di Malala, un'altra studentessa pakistana, la 17enne Ina Khan, che si batte per il diritto allo studio delle ragazze, finisce nel mirino dei talebani. Negli ultimi giorni molte le telefonate minatorie che sono arrivate. In una si diceva proprio che Ina è il prossimo obiettivo da colpire. Le elezioni americane si avvicinano. Gaffe di un esponente vicino ai Tea Party sullo stupro. Lo staff del candidato repubblicano Romney prende immediatamente le distanze. I repubblicani ci ricadono. Non si tratta solo di una nuova gaffe, ma anche della stessa gaffe. Questa volta è il senatore Richard Murdoch a inciampare. Le gravidanze provocate da abusi sono qualcosa che Dio ha voluto che accadesse, ha affermato il senatore, che non ha mancato di argomentare. Sono arrivato alla conclusione che la vita è un dono di Dio e credo che anche quando abbia inizio in quella situazione terribile che è lo stupro, sia qualcosa che Dio ha voluto che succedesse. Memore della precedente simile bufera, che risale allo scorso agosto, Romney ha preso subito le distanze, anche perché alle elezioni mancano solo due settimane e, considerata la minima distanza tra i due, non sono ammessi errori o passi falsi, e nemmeno temi delicati come l'aborto. L'interruzione di gravidanza potrebbe anche fare la differenza tra i due sfidanti. Contrario Romney, ad eccezione dei casi di stupro, incesto e pericolo per la vita della madre, è stato più volte accusato da Obama di voler riportare l'America indietro di anni, limitando i diritti delle donne, che potrebbero a questo punto avere un motivo in più per puntare sul presidente uscente. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Brutta gaffe dunque questa contro le donne. Proprio oggi classifica del Forum Economico Mondiale sulle pari opportunità. L'Italia langue all'80° posto. L'Italia non è un paese per donne. Se i dati sulla crescente disoccupazione le mettono insieme ai giovani tra le categorie più esposte, ora lo certifica anche il Forum Economico Mondiale, che scandaglia non solo le situazioni di lavoro, ma anche il ruolo in politica, l'istruzione, la salute e le aspettative di vita. L'Italia langue all'80° posto nella classifica mondiale in materia di pari opportunità fra uomini e donne, una situazione aggravata anche dalla crisi, tanto che siamo scivolati qualche gradino più in giù anche del non lusinghiero 74° posto di un anno fa. Non sorprendono in testa alla classifica Islanda, Finlandia, Norvegia e Svezia, ma delude ancora che fra i 45 paesi ad alto reddito l'Italia si posizioni al 24° posto, precedendo solo Grecia e Malta tra i paesi europei, dietro anche a tutti gli est europei. La Germania è al 13° posto, la Spagna al 26°, la Francia al 57°. Noi, se guardiamo solo alla partecipazione nel mondo economico, scendiamo fino al 101° posto. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E tiriamo un po' il fiato parlando di calcio. Allora, ieri sera nuovo pareggio per la Juventus in Champions League. Stasera tocca invece al Milan. Carlo Genta. Ciao Piera, buongiorno a tutti. Sì, ieri sera, per la verità, il meno atteso dei tre pareggi della Juventus, perché sul campo di una squadra semisconosciuta come i danesi del Nordjylland, che fin qui non avevano mai segnato e mai fatto un punto, invece un 1-1 peraltro in rimonta con Vucinic. Ora la situazione non è semplicissima per i bianconeri. Il Chelsea ha perso con lo Shakhtar Donetsk, dunque a grosso modo sarà decisivo il confronto diretto proprio con il Chelsea, campione d'Europa, ma questo accadrà a novembre. Intanto stasera potrebbe essere la notte decisiva per il Milan e soprattutto per il futuro del suo allenatore Massimiliano Allegri. Si gioca a Malaga, un buon risultato potrebbe tenere l'allenatore in sella al Milan, mentre è difficile capire quali potrebbero essere gli scenari in caso di sconfitta. So che tu volevi ti parlassi anche di Usain Bolt. Invece non lo farai, sì. No, lo farai. Lo faccio volentieri. Usain Bolt mi sembra una cosa piuttosto buffa. Dice che dopo Rio 2016 avrà 30 anni e si dedicherà a giocare a pallone. Il suo sogno è il Manchester United. A me sembra parole abbastanza libertà, una buffonata, però è divertente, magari ne parliamo anche dopo in tutti i convocati. Va bene, grazie al nostro Carlo Genta, che dunque ritroveremo fra poco a tutti i convocati. Questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, il prossimo GR24 alle 14. GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buongiorno da Marta Cagnola per la seconda edizione del GR Spettacoli. Piccolo malore per James Bond, cedimento in passerella ieri per Daniel Craig alla premiere del nuovo 007 Skyfall alla Royal Albert Hall di Londra. L'attore si è fermato sul red carpet, pallido e affaticato, e si è asciugato il sudore con un fazzoletto. Poi si è ripreso e ha continuato a sfilare raggiungendo il resto del cast. Il film arriverà nelle sale italiane dal 31 ottobre. È Francesco Menegazzo, 29enne della provincia di Treviso, il vincitore di The Apprentice, il talent show sul mondo del business andato in onda su Cielo. Francesco lavorerà ora a fianco del boss della trasmissione, Flavio Briatore, in una delle sue aziende. Arrivano le prime indiscrezioni sulla serata evento che il 17 dicembre riporterà Roberto Benigni su Rai 1, la più bella del mondo. Prima un inizio in cui metterà alla berlina i vizi della classe dirigente di oggi, poi per contrasto l'analisi dei principi fondamentali della Costituzione. Intanto, nel film di Massimiliano Bruno, Viva l'Italia, in uscita domani nelle sale, Fil Rouge è proprio un'immaginaria trasmissione TV dedicata alla Costituzione. Massimiliano Bruno. È un bisogno. Guarda, so che anche Emma Bonino sta lavorando a un libricino sulla democrazia per spiegare bene una cosa, che la Costituzione, quando ne parliamo, ne ha parlato anche Paolo Rossi, ne ha parlato Ligabue in un suo film, è per ricordare a tutti che abbiamo una delle Costituzioni migliori scritte nella storia dell'umanità e che dobbiamo semplicemente applicarla. Se si insegnano i principi democratici, allora le persone capiscono che nel momento in cui vorrai dare la vita per difendere i diritti di un tuo avversario, allora sarai uno che applica la democrazia. In questo paese invece l'avversario si vuole ammazzare a macetate, come in Ruanda 15 anni fa. Via del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi, color di foglie. Tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa rosa. Il 13 novembre esce I Concerti, la raccolta completa degli 8 tour di Fabrizio De André in 16 dischi. Lo ha annunciato Nuvole Production. I tour vanno dalla prima esibizione alla Bussola 1975 all'ultima tournée del 1998. Intanto la PFM, uscita la scorsa settimana con il cofanetto Celebration 1972-2012, festeggia il quarantennale dei primi due album Storia di un minuto e Per un amico, anche con un libro di Antonio Oleari e Renzo Stefanel. Storia di un minuto, il primo disco di PFM. Franz Di Cioccio. Nel libro, facendo parlare un po' tutti, quindi c'è un racconto corale, però si capisce chi ha detto, come si è elaborato questo gruppo, che cosa è successo all'interno, come sono nati tutti gli incontri, ci sono delle predisposizioni precise, se no certe cose non accadono. Soprattutto il desiderio di essere diversi da tutto ciò che stava accadendo all'epoca. E non per ultimo, avere la voglia, la capacità, non lo so, ma credo che a memoria mia forse solo uno o due, e nel mondo è successo altre volte. Però nessuno ha fatto due dischi così importanti nello stesso anno. E per la seconda edizione del GR Spettacoli è tutto. Da Marta Cagnola, ancora l'augurio di una buona giornata.